乐假期，现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 踏着音乐的脚步轻舞飞扬，乘着歌声的翅膀遨游音乐的海洋。有线古典音乐广播98.6兆赫，每天10点、22点播出。歌舞剧场，爱与心灵的天堂。 欢迎来到歌舞剧场，我是古月。 今天首先带来的是国王歌手合唱团演唱的不同时期的古典音乐名作，既有宗教音乐，也有浪漫的小夜曲，下面请连续欣赏。 Thank you. Thank you.

Thank you. Oh, To Sylvia. 有线古典音乐广播98.6兆赫，每天10点、22点播出。歌舞剧场，爱与心灵的天堂。 欢迎来到歌舞剧场，我是古月。接下来，请欣赏卡尔·阿尔夫的《博伊伦之歌》。歌词是从德国博伊伦村的本尼迪克特教团修道院发现的中世纪手抄本中摘录出来的，也叫做布兰诗歌。它以金矿有力、热情奔放的音乐赋予了这部奇异的诗篇以新的生命。

emperà, curus et subtilis, nova mundo resera, facies aprilis, ad amorem properat, animus erilis, et jocundis imperat, Deus puerilis. Rerum tanta novitas in solenni vera, et feris auctoritas iubet nos caudire, vias prebet solitas, et in tuo vera, fides est et probitas, tum retinere. De corde totaliter et ex mente tota sum presentialiter absens in remota quis quis amataliter valvitur in rota. Thank you. Es transiterius ire vehementi in amaritudine loquor miementi factus di materia sine serventi simili sunt folio piccolum venti consideri proprio ir sapienti supra vitra ponere sine fondamenti stoldo seghe comparar fluvio laventi superiore tramite molto permanenti Ita perna post vesperam nudus rece crietur. Et sic tenudatus vest clamavit. Nostre vite gaudea, abscolisti omnia. Thank you. Thank you. per fulguris lucem donat tenebris. Acetis labilis, frigulus innefabilis, membris acetis labilis, si puer cum puello laborare tur in cellula, felix conjunctio. Yeah. fiam amore virginali tutto sarveo. Novus, novus, novus amores Thank you.